tu chi sei? Chi sei? Tu chi sei? Avanti. Non ti sento, chi sei? Luca, mi senti? No, non ti sento, a tratti. Luca, mi senti adesso? Chi sei, Antonello? Luca, Luca. Chi è? Babbo Natale. Giuseppe sei? Io sono lì, perché non mi riconosci? Io dove sei? A casa sono. E ci arrivi, io sono a Canica. A Canica? Ehi, a bene mi ascolti? Ehi, ti ascolto abbastanza bene, forte, è chiaro. Ma sì, con il portatile? Con il portatino sono, con l'antenna di gomma. Anche io. Ma sei dentro casa, oh, Luca? No, sono uscito fuori adesso, fuori dalla porta. Sono a Canica in un punto brutto, me. Ah, cappa. Riesci arrivi abbastanza forte. Vabbè, non c'è nessuno. Poi non c'è nessuno, no. Tutti quanti l'attacco sono. Questa volta passaggio non ho capito. Cosa hai detto? Ho detto che sono tutti quanti in letargo. Con questo freddo, cosa vuoi che si mettano a parlare? Io sono in campagna dal padre della mia ragazza. C'è un caldo dentro che si muore. Meglio così, meglio così. Cosa state arrotendo? Cosa, Giuseppe, l'ho capito? Ho detto, cosa state arrotendo? Giornati, arrostito e mangiato. Certo, beato te. Fai bene tu. Giuseppe, non ho capito, sto passaggio non ho capito. Ho detto che fate bene, dateci matana a mangiare, se no con i tempi duri, con i tempi che stanno, con i tempi brutti, oi. Giuseppe, cosa hai detto? Ho detto, con i tempi che stanno arrivando, meglio riempirci la pancia, hai capito? Certo. No, qua ci sta bene, c'è caldo, dai. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, dai. Cosa, Giuseppe? Giuseppe, mi senti?